Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Buonasera a tutti. Benvenuti in frequenza, questa è Blue Time Live. Dimentica. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Buonasera a tutti, benvenuti in frequenza, questa è Blue Radio Veneto e siete all'interno di Blue Time Live, la trasmissione del martedì sera con protagonista la musica live, quindi suonata qui all'interno dei nostri studi di Blue Radio Veneto. Una buona serata a tutti, vi arriva da Flavio Bilato e un'altra buona serata anche da Maurizio Cazzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, come ti senti questa sera? Ah, benissimo, dentro la fossa dei leoni, bellissimo. Sei all'interno della fossa dei leoni, ma io oserei dire all'interno della fossa dei rifiuti in questo caso. Sì. Perché è una trasmissione davvero particolare, non me ne vogliono gli ospiti in studio questa sera, non mi riferivo a loro definendo rifiuti, ma a tutte le cose che si sono portati appresso. E quindi diamo subito il benvenuto ai Manzella Quartet. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, cosa ci avete portato di bello? Avete portato di tutto e di più. Non ci sarà spazio in tutta questa trasmissione per elencare tutta la strumentazione che avete, vedremo poi di ricavare uno spazio anche per come dire, descrivere alcuni degli strumenti, diciamo, più particolari. Allora, innanzitutto, Manzella Quartet, vediamo di fare una breve scheda di chi siete e da dove venite. Allora, innanzitutto salutiamo con ordine, perlomeno l'ordine che avevo qui nella stampa, Alessandro, poi ancora Giovanni, Simone. Ciao. Ciao. Davide, e poi ci sono altri personaggi, visto che Manzella Quartet viene definito anche come dire, una formazione instabile. Vediamo se talmente sì? Instabile che non c'è Davide, ma c'è no. Max stasera. Ah, ecco, vedi, quindi il nostro Max. No. Max sono io, sono Davide in un travestimento riuscito poco bene. Perfetto. Allora, benissimo, quindi quattro personaggi non in cerca d'autore, ma in cerca sempre di suoni nuovi, di rumori nuovi, per, diciamo, tradurli in musica. Qual è la particolarità dei Manzella Quartet? I Manzella Quartet non suonano strumenti normali, tradizionali, quelli che si trovano nei negozi di strumenti musicali, ma suonano gli strumenti che si trovano, come si diceva prima, nella discarica. Discarica che per l'occasione viene resa musica in questo caso. E allora, Manzella Quartet, questo progetto così particolare, come è nato? Probabilmente da un errore, buttare il secco all'umido, le lattine nel vetro? No, di solito diciamo che in una nostra canzone diciamo pure che se metti i rifiuti nella campana suona anche lei. Ah, bene. E quindi ci riferiamo alla campana, quella del vetro? Ci riferiamo alla campana del vetro. Il gruppo è nato per caso. E io e Ale dovevamo incontrarci ed andare ad un festival con un gruppo vero, cioè quelli che suonano gli strumenti veri. Ma all'ultimo minuto gli altri musicisti non si sono presentati. E io ho pensato di tradurre in suono quello che era rumore, e per cui ho detto ad Ale, che è molto bravo, tu vai avanti che a me mi scappa da ridere. Sì. E lui è andato avanti a suonare e a cantare, e noi addietro, come si dice, sì, dalle nostre parti, e abbiamo cercato di accompagnare questo bravo cantante con quello che potevamo. Bene, la voce che avete sentito è quella di Joe Ganga, uno dei personaggi di questa Manzella Quartet. E Giovanni, che sì, Joe Ganga, no? Come, esatto, come ti chiamano? Preso liberamente da Gaber, forse. No, perché Gaber era Goganga. No, Joe Ganga viene da un po' Goganga e un po' Joe, perché io avevo un gruppo di jazz che si chiamava Goganga Jazz Rambles. Quindi con loro ero Joe e Ganga, Joe Ganga, insomma alla fine è venuto fuori Joe. Ma sei passato anche all'hard rock te, praticamente? Ho fatto di tutto. Ti chiamano padre e patriarca, come possiamo dire? Padre o patriarca, o tutti e due assieme? Ma diciamo che sono... No, padre, sono il fratello maggiore. Ah, fratello maggiore. Oddio, lui è un attimino più piccolo di mio figlio. Potevi essere suo papà, chiaramente, quello sì. Lo zio del gruppo. Ebbene, allora, carissimi ascoltatori, dovete sapere che questi Manzella Quartet stanno presentando anche un disco, lo stanno presentando così bene, così rumorosamente, che la gente li sta anche seguendo, quindi sono proprio bravi, diciamo, questi non musicisti. Allora, rumoristi, eccolo qua. Allora, c'è un album con una copertina del tutto particolare e che dice Se si ne pa une vache, quindi un titolo assolutamente francese per presentare il vostro album. Allora, ci ascoltiamo subito una canzone per iniziare e dopodiché torneremo anche per capire del perché di questo nome. Live. Abbiamo ascoltato il primo pezzo dei Manzella Quartet, tanto per capire e definire un po' la loro musica, fatta tutta di suoni che all'apparenza suonano bene, però in realtà suonano benissimo, nel senso che sono i loro non strumenti ad esercitare comunque una quota parte di rischio nella bella riuscita, anche perché voglio riferirmi ai Manzella Quartet. Non è facile accordare uno strumento musicale del genere. Beh, soprattutto penso al bidon basso, che è uno strumento particolarmente difficile da accordare, ma solo il nostro grande maestro Joe Ganga ha questa abilità. Diciamo che lui è bravissimo. Parlavamo appunto col maestro Joe Ganga mentre il pezzo andava, Flavio. Sì. Io l'ho intitolato Mrs. Robin, insomma, è una cosa molto solare, molto alla Beach Boys, questo viaggio sul ponte di Brooklyn. Viaggiate con gli strumenti, non atipici praticamente, strumenti che avete colorato, che avete costruito voi. Ovviamente sì. Gli strumenti vengono da un universo fiabesco che è quello delle cucine, è quello delle pentole piuttosto che, oppure delle soffitte, cioè tutto quello che la gente può trovare a casa. Per cui noi diciamo sempre: non buttate via mai niente. Perché può essere tutto utile, esatto. Perché suona tutto praticamente. Non c'è niente che non può suonare, vero? È così. La filosofia vostra è questa. Questa senz'altro. Infatti, un Nutellone qui davanti a noi lo dimostra. Anche un buon vasetto di Nutella. Cari ascoltatori, non abbiamo le telecamere, però abbiamo una Nutella Max gigante, proprio che riempita di sì. Riso. Ecco, perfetto. Riempita di riso. Semplicemente uno shaker creato con un vasetto di Nutella vuoto e del riso. Quindi classico riso soffiato, in questo caso riso sbattuto, sì. di questo vasetto, però è quello da 5 kg se non sbaglio, no? Sì, ecco. Ci ho messo parecchio impegno a svuotarlo, ma per i Manzella questo è altro. Tanta fatica. Ecco, allora vediamo un attimino. C'era questo titolo in francese che mi incuriosiva prima molto, quindi Si si ne pa une vache, quindi questa non è una mucca, questa non è una vacca. C'è qualche riferimento con Manzella, visto che nessuno di voi porta il cognome Manzella? Sì, il riferimento è duplice. Primo, vabbè, se si ne fa un vache vuol dire non è una mucca e noi ci chiamiamo Manzella apposta. E l'altro è riferito sia a Magritte e sia a noi, nel senso che quando Magritte ha cominciato a far parte del futurismo, lui fece un quadro in cui aveva disegnato una pipa e sotto aveva scritto Se si ne pa un pip, proprio per dire alla gente che tutto quello che vedevano poteva non essere vero, per cui andavi al di là dell'oggetto. E io mi sono ispirato a Magritte, e per cui Se si ne pa un vache, i Manzella vanno al di là della mucca e al di là della musica. Quindi se vi trovate in giro per i negozi di dischi ben riforniti una copertina con una mucca su un sfondo verde, ebbene, quello è il disco dei Manzella Quartet. Benissimo. Non sono i Pink Floyd, assolutamente. Non sono Pink Floyd. A cui teniamo molto la differenza. Il fatto che comunque anche il nostro CD ha una custodia ecologica, quindi completamente riciclato 100%, quindi carta riciclata. Cioè, visto comunque la tematica è molto importante per il Manzella Quartet, l'ecologia, quindi anche col nostro CD vogliamo sottolineare questo aspetto. Ok, allora sottolineiamo anche un altro aspetto, che Manzella Quartet non hanno solamente cover di canzoni rivedute e corrette in chiave non strumentale, quindi con questa raccolta che io non definirei differenziata, ma la definirei una raccolta dell'uguaglianza, perché tutti si sentono più strumenti. In questo caso mi sento forse un po' poeta, un po' profeta, ecco, in questo. E avete anche comunque delle vostre canzoni, quindi delle vostre canzoni suonate proprio per non chitarra, non basso e non batteria. Sì, diciamo che gli strumenti veri sono uno solo, la voce, forse lo strumento unico, le nostre voci. Poi anche diciamo che ogni tanto compare anche una chitarra vera, perché comunque in alcuni pezzi la tegliarra, che è lo strumento fondamentale del gruppo, è l'unico strumento che fa le armonie, è un po' scomodo da suonare su certi pezzi. Comunque diciamo che anche la teglia ha il suo perché. Quindi, benissimo, sì. Allora adesso nel primo pezzo che ci fate ascoltare dal vivo c'è già la teglia? Questo è uno dei pezzi in cui la chitarra diciamo che è molto utile. Allora cominciamo. cominciamo con la chitarra e cominciamo a far sentire anche le canzoni proprie di Manzella Quartet. In questo caso cominciamo con la canzone che si intitola Tanti anni fa e che è anch'essa inserita all'interno di questo album che si intitola Se si ne fa un bacio. Quindi per voi, signore e signori di Blu Radio Veneto, questi sono i Manzella Quartet. Io mi ricordo che venivo su da te, né treni, tram, né bus, tanti anni fa. Tanti anni fa mangiavo il mio panino all'osteria vicino Barbera e Bardolino, vita da re. Poi son tornato là, la casa mia non c'è, ora c'è un motel. Mi son sentito un colpo al cuore, tanto cemento da svenire, ma il mar che si vedeva da lassù non c'è già più. Ma il mar che si vedeva da lassù non c'è già più. C'era uno vestito a sera che m'ha portato poi al piano 3. La stanza era una suite, andava lì con lift, console, iPad, PC, super high tech. Ma il bosco non c'è più, la casa mia non c'è, che posto è? Ci dicono che sia progresso far diventare il mondo un cesso, ma il mar che si vedeva da lassù non c'è già più. Ma il mar che si vedeva da lassù non c'è già più. Ma il mar che si vedeva da lassù non c'è già più. Ma il mar che si vedeva da lassù non c'è già più. Ma il mar che si vedeva da lassù non c'è già più. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo sentito la prima canzone in versione acustica live qui dai nostri studi di Blu Radio Veneto di Manzella Quartet. Abbiamo ascoltato Tanti anni fa, quindi una canzone che parla di un'infanzia passata e di un degrado vissuto. Chi è che ce ne vuole parlare di questa canzone, di un testo? Del testo che ha scritto Gioganga, se non sbaglio, no? Sì, sì, l'ho scritto io. Ecco. Praticamente era una denuncia al degrado edilizio e tutto quello che fanno. Io mi sono ispirato al fatto che andavo in vacanza in un paesino a Endine, sul lago di Endine, dove da casa mia si vedeva il lago, non era il mare, però il mare mi piaceva di più come discorso poetico. Però io vedevo il lago e con l'andare degli anni hanno costruito, continuato a costruire fino a quando dalla mia terrazza il lago non lo vedevo più. Quindi mi sono ispirato a questo lago, l'ho fatto diventare un mare, anche perché il degrado edilizio sulle coste era ancora peggio di quello del lago. E niente, ho voluto denunciare, come ha fatto il nostro amico Celentano tanti anni fa, ho voluto denunciare questa cosa che in effetti esiste e la gente dovrebbe un attimino pensarci. Volevo sapere, questa canzone è nata già per questo genere di strumento differenziato oppure da prima era suonata in altra chiave? No, era suonata in inglese ed era fatta con gli strumenti tradizionali. Esattamente. E poi è stata rimodernata, riciclata, in senso positivo. Esatto. Qualcuno ha scritto che le vostre non sono delle canzoni, sono dei sistemi, degli approcci per il pubblico, che il pubblico deve inventare delle canzoni, cioè deve proprio mettersi dentro nel vostro ragionamento, è così? Sì, è così, nel senso che noi non suoniamo canzoni, noi diamo idee, degli spunti, delle idee. Di canzoni, e il pubblico in effetti ne è partecipe, quindi... Ma di fatti è vero, nel senso che quando ti vedono e vedono quegli strumenti non credono mai che da quegli strumenti viene fuori una musica. E allora diamo questo spunto, lo spunto poi si trasforma in canzone tra noi e loro. Quindi una jam session continua praticamente. Esatto. Che non ha fine, è bello così, è bellissimo. Proprio lo spirito live è proprio quello, una jam session continuata. Io se posso volevo precisare. Sta parlando Max. Sono Max, sì. Max, che è un po' di tutto, è un sacco di cose. Tu, Max ed altro, c'è scritto nella tua biografia. Max ed altro. Io per la precisione sono altro. E sei altro, te, perfetto. Esatto. Vedete, il degrado urbano ed edilizio di cui parlava Giovanni, in effetti è stato notato da Giovanni già ai tempi della costruzione del Duomo di Milano. Cioè, per onore all'età che il nostro patriarca ha, lui si riferiva a quello in verità, lo ha poi trasportato diciamo, in un tempo più recente, ma lui si riferiva al Duomo di Milano, perfetto. Vissuto in prima persona da lui. Ne ha assistito alla costruzione. Sì. Madonnina, vedendo tutto il disastro che stava succedendo a Milano, ha preferito andare lassù, no? No, per vedere meglio il panorama. C'era anche un aneddoto molto particolare. I barconi che arrivavano al Naviglio, sulla Darsena, erano stufi, avevano una scritta, si chiamava AUF, erano molto stufi. In effetti non era così, perché AUF vuol dire ad usum fabrica. E i barconi che arrivavano col marmo di Carrara non pagavano il dazio perché servivano alla costruzione del Duomo di Milano. Ah, hai capito. Maestro, lei si stupisce con questi aneddoti, veramente. Sono emozionato. Sì. Lo ricorda pur essendo stato adolescente ai tempi. Esatto. Sì, perché c'era già Joe Gang, è da ricordare che c'era già durante la costruzione della prima pietra del Duomo di Milano. Ovviamente, sì. Assistito alla posa. lui dice sempre di essere degli anni 40, non specificando il secolo. Bravo. Vabbè, allora Manzella Quartet qui all'interno di Blue Time Live, Blue Radio Veneto. Una piccola pausa per ascoltare ancora un pezzo, anzi due, è un pezzo però sono due, quindi diamo ascolto a Come Together e a No Woman No Cry, sempre con i Manzella Quartet. Blue Time Live. Live! Come on, flat to pick up, moving up slowly, pick up, choo-choo, I'm only one, oh. Ascoltate Come Together, No Woman No Cry, in una versione di 2 minuti e 22 secondi ad opera di Manzella Quartet. Si sentiva proprio l'atmosfera live di questo pezzo, non il live acustico radiofonico che stiamo proponendo in questa sera, ma nella versione teatrale, perché dovete sapere, carissimi ascoltatori, che i Manzella Quartet sono richiestissimi per quanto riguarda la loro produzione musicale, e quindi all'interno di questo Sessine Pain Vash abbiamo anche la possibilità di ascoltare ben 3 brani che parlano dei loro concerti live. E noi siamo fortunati, abbiamo i Manzella Quartet con noi per parlare di questo loro progetto sì particolare. Possiamo dire una cosa, Flavio? Sì. Parlavo con tutti i ragazzi mentre il pezzo andava, hanno suonato con molto rispetto Come Together, secondo me, con molto molto molto rispetto. Non siete andati oltre, siete stati sui binari nonostante tutto, è così? Ma l'idea era di non stravolgere la canzone, ma magari di personalizzarla. Dove crei un pochettino di più, ma Come Together, sì, siete stati proprio rispettosi al 100%. Sì, sì, quella... anche perché all'inizio noi volevamo chiamarci Beatles. Ah, sì, però poi ci hanno chiamato, hanno detto guarda che è già stato registrato quel nome lì, e allora abbiamo detto allora Manzella, va bene. Tanto era un quartet anche loro, no? Quindi, esatto, era un quartet anche loro. Ecco. No, la canzone in realtà abbiamo cercato di personalizzarla chiaramente, sì, con i nostri strumenti, riprodurre il basso di Paul. Ma adesso spieghiamo perché volevate chiamarvi Beatles, perché Beatles vuol dire scarafaggio, e scarafaggio si trova all'interno della raccolta differenziata. Beh, sì, volte... nell'umido. Nell'umido è un po' poco qualificante, però diciamo che il concetto di differenziata si poteva sposare anche ai tempi dei Beatles. Senz'altro. No, Come Together in particolare abbiamo dovuto riarrangiarla a stile Manzella, perché comunque la mancanza di strumenti richiedeva una certa attenzione ai dettagli, e diciamo che comunque pentole, pentolini, teglie e quelle poche corde di chitarra che ci sono, penso che abbiamo fatto un lavoro anche discreto. Il basso di Giovanni è stato un basso, o presunto tale, il bidon basso adeguato. Bisogna dire che la cosa più carina del Come Together è lo shaker usato da Simone, che in effetti è un flacone dei fermenti lattici con dentro la zuppa di orzo e farro della nonna. Ah, molto bene. Perché la zuppa di orzo e farro della nonna aveva il suono giusto. Vedi. Quindi non medicinali scaduti, ma zuppa di orzo e farro. Vedi, si imparano sempre. Zuppa bio. Si imparano sempre cose nuove. Comunque la zuppa che poi non si potrà più fare, immagino. No, ormai passato molto tempo. Un po' scaduta. Sì. Ma ogni tanto i granellini all'interno li cambiate, no? Beh, dipende, no. Quando perdono il suono, sì. Come cambiare le corde della chitarra. Certo. Sì, cose, tamburi. Come Together mi sembrava anche un po' che nascesse verso un'atmosfera portata verso la salsa, con quel campanaccio. Sì, diciamo che abbiamo voluto rifarla un po' in stile reggeggiante giamaicano, cosa abbastanza riuscita, credo. Sì, sì. Nel senso... festival di strada abitualmente... quando ci esibiamo abbiamo un repertorio molto reggae, perché comunque è una musica molto sentita dal pubblico, la gente partecipa molto quando suoniamo i pezzi reggae, ballano per strada, quindi anche il concetto di suonare per strada è molto importante per noi, perché comunque è un il nostro concerto diventa un momento di unione anche col pubblico e soprattutto per strada, perché è un concerto ecologico al 100%. 100% ecologico, senza. E quindi siete stati spesso anche in quel di Ferrara, dove c'è il grande Basket Festival. Sì, sì, lì abbiamo, diciamo che abbiamo uno abbiamo avuto delle belle soddisfazioni. Sì, Ferrara Festival. Siamo stati invitati due volte, tra cui nella prima abbiamo vinto, diciamo, il concorso. Siamo stati più votati dal pubblico. E Max come che si è comportato a Ferrara, visto che lui fa vari ed eventuali? A me interessano le eventuali. Benissimo, diciamo, non c'era. Ah, non c'era. Perfetto. Quando c'è il problema? Quando c'è, Max, il problema? Diciamo che a Ferrara non ho sbagliato niente, assolutamente. Quindi ho contribuito alla buona riuscita della performance. Perfetto. Benissimo. Allora, no, dicevo, per sapere qualcosa di più anche di Manzella Quartet, oltre a quello che già diciamo e facciamo ascoltare durante questa trasmissione, è un invito ad andare a vedere anche il vostro sito internet, che risponde a quale indirizzo? www.manzellaquartet.it. E sul nostro sito troverete tutte le nostre date, tutte le nostre fotografie, le news, strumenti, contatti. Facciamo la fotografia di ogni strumento, visto che ci siamo. Descriviamo gli strumenti. Io posso partire dal mio strumento, che è la tegliarra, che non è altro che una teglia per lasagne, un po' vecchiotta, anche un po' vissuta. Diciamo che ha dato quello che poteva dare, è stata convertita e nobilitata in uno strumento musicale che è stato creato assemblando il corpo di una chitarra classica, quindi la cassa armonica, la parte superiore della cassa armonica della chitarra, il manico della chitarra e chiaramente paletta e chiavi, applicata a questa teglia per lasagne, crea un suono molto simile, metallico, simile alla Telecaster, direi. Bene. Lo dico io, però non so se la Teglia, non so se poi anche Teglia Caster, diciamo che Leo Fender si sta rivoltando nella tomba. Sì. No, comunque l'hai fatta vedere a qualche liutaio, così tanto per non oso assolutamente. No. Vabbè, comunque poi sentiremo anche più tardi parlare, suonare la tegliarra. Adesso c'è anche il bidon basso. Come formato il bidon basso? Il bidon basso è un bidone dell'olio, un bel bidone dell'olio con una riloga delle tende e una corda per stendere i panni. La corda per stendere i panni va al centro del bidone, dove c'è un gancio, vibrando. Sì. Il suono esce dal buco del bidone e fa questo suono. Il dramma non è tanto il bidon basso, è quando vado a comprare la corda. Perché l'ultima volta sono venuti con l'ambulanza. Perché ho capito. Sono entrato in un negozio di cordamio, ho cominciato a guardare in giro e a suonarle tutte. E a un certo punto è arrivato il proprietario, ci posso esserle utile? Io l'ho guardato con un'aria un po' strana e gli ho detto: ma questa suona? E ha chiamato l'ambulanza. No, no, non deve essere facile fare il vostro mestiere. Allora, poi continueremo con la descrizione di altri strumenti musicali, ma adesso è di turno un'altra vostra bella canzone, una vostra autoproduzione che compare sempre all'interno di questo Ceci n'est pas une vache. Ricordiamo i nostri ascoltatori, è il disco dei Manzella Quartet che sono qui con noi questa sera. E allora adesso si stanno preparando, eccola là la tegliarra, io la vedo, poi i nostri ascoltatori potranno vedere le foto attraverso il nostro sito internet, quindi collegandovi a www.bluradioveneto.it e cliccando all'interno della pagina riservata ai Manzella Quartet. Più avanti ci saranno anche le fotografie dell'evento e anche, perché no, quella che è la registrazione che stiamo effettuando in questo momento, che poi verrà sistemata negli archivi sonori. Allora, Blu Radio Veneto, Blu Time Live, questa è Sweet Lorraine con i Manzella Quartet. Thank you. a thousand miles of road to prove my love is true. Walking through Indiana with my best friend, a white dog called Bijou. I hope to see you as soon as I can do. I give you my heart, no rent. Oh my darling, sweet Lauren, my heart is only for you. This time I fell in love again, your eyes are like on flower blue. Girl, you are my happiness, I couldn't live without you. I know that you are the best star in the sky, because you are the reason of my life, my sweet Lauren, my sweet Lauren, my sweet Lauren, my sweet Lauren. The best star in the sky, because you are the reason of my life, my sweet Lauren, my sweet Lauren, my sweet Lauren, my sweet Lauren, my sweet Lauren, my sweet Lauren. Quella che ci siamo ascoltati adesso è My Sweet Lorraine assieme a Manzella Quartet da Cécine Pas Une Vache. E allora io e Maurizio, quando abbiamo ascoltato per la prima volta questo disco, ancora prima di conoscere Manzella Quartet, ci stavamo cervellando, nel senso di dire: ma chi ha scritto questa canzone? Ma da dove viene? Sicuramente un cantante, ci sfugge adesso qual è, può essere la sua provenienza. Sicuramente un americano che ha dedicato al suo paese la canzone, come succede molto spesso con le varie Carolina, eccetera. E in realtà, o Alabama. E invece abbiamo scoperto che questa è una canzone che avete scritto voi e non è dedicata a un paese, bensì a una donna. Sì. Allora, chi ce ne vuole parlare? Che devo dire? Parlo sempre io, mi dispiace però. Un po' di anni fa ho lavorato per una decina d'anni in Inghilterra e una mia collega che si chiamava Lorraine era molto dolce, molto carina e aveva degli occhi azzurri di una quarta abbondante. Della quarta abbondante. ed era molto molto molto dolce. E mi è venuto in mente questo ritornello, non tanto per lei, ma quanto perché My Sweet Lorraine. Ma è molto americano questo ritornello. Mi tornava molto e ho scritto 3-4 strofe appunto nel 91. E dopo, quando ho incontrato Alessandro e abbiamo fatto i Manzella, ho deciso di riprendere queste strofe che avevo fatto e di finire la canzone. Lei non l'ha mai saputo e anzi non so più neanche da che parte sta adesso. E vorrei tanto darglielo, perché lei inconsciamente è stata diciamo, la musa ispiratrice di questa canzone. Si sa mai che sia in ascolto in questo momento. Può darsi via internet, può darsi. Ma magari sarà anche su Facebook, per cui esatto. Si può far presto anche a ritrovarla, insomma. Può essere, ce può ne, essere. Ce ne sono tanti. Comunque essere. Va bene, ti aiuteremo in questa ricerca, perché ci teniamo che Lorraine abbia il suo pezzo. Però sembra giusto. L'origine, come ha detto giustamente Flavio, secondo me è americana, anche se è una canzone che tu hai immaginato, che sei stato in Inghilterra un po' di anni, è americana come fondamento, sì, come anche come movimento, certo, certo. Poi il discorso cambia, però è americana come idea, secondo me. No, è vero, verissimo. Poi Alessandro gli ha dato questo arrangiamento country. Sì, esattamente. Che ci stava proprio ad hoc. Io l'avevo già nella testa, l'avevo già così. Un country rurale, potremmo arrivare. Esatto, però lui gli ha dato proprio la chicca. Mm. Ecco, lui ha proprio... Mi sta adulando, maestro. Ma è vero. Lei mi confonde. Una cosa dobbiamo dirla. Sì. Nelle canzoni che ho scritto, le più o meno le 10 canzoni che ho scritto io con i Manzella, bisogna dire una cosa fondamentale. Io ci metto il grosso, cioè io ci metto le parole e la musica, ma gli arrangiamenti vengono fatti praticamente da noi quattro in una sorta di lavoro da team, ma in una maniera fantastica. Voi non ci crederete, ma ognuno di noi ha un'idea nuova, innovativa, e incredibilmente, man mano che ci mettiamo a parlare, le canzoni vengono fuori da sole. Non facciamo nessuna fatica, perché della serie ha portato qualcosa di nuovo, dove lo scarico? Esatto. È proprio così, tanto per parlare di quella che è la musica di Manzella Quartet, che come si ricordava prima è fatta con degli strumenti, diciamo, che poi fanno musica, ma in realtà partono dal rumore che fanno in origine, quindi poi piacciono e diventano appunto anche degli attrezzi musicali. Sì, è come è stato difficile registrare in uno studio di registrazione similar strumenti. Non è semplice, anche perché uno studio di registrazione ha determinati momenti, ha determinati punti, certo, di riferimento. Il guardiano dello studio di registrazione sicuramente non li avrà riconosciuti di primo acchito. Avrà pensato a qualche operatore ecologico. Ecco, che per i controlli classici sulle immondizie, e poi invece ha capito che invece si parlava di Manzella Quartet. Questo capita in tante volte. Una volta siamo andati a suonare in un locale e il proprietario mi si è avvicinato, perché io, essendo il più anziano, dovrei teoricamente fare la figura della persona seria. Sì. Allora questo signore mi si è avvicinato e mi ha detto con un'aria molto, molto seria e molto sottovoce: mi scusi, io vi ho chiamati perché mio fratello ha detto che siete bravissimi e lui è un musicista. Ma questa roba qui suona. Hai visto? Proprio bisogna vedere per credere, quindi sentire per credere, perché appunto anch'io, quando vi ho visto portare all'interno questi strumenti, già magari lo sapevo prima, ero preparato, però ancora il mio occhio non aveva realizzato appieno poi la bontà che viene espressa attraverso questa strumentazione, o come li ha chiamati Alex? Attrezzi musicali. Le reazioni alla vista dei nostri attrezzi musicali sono varie. Qualche tempo fa siamo andati a suonare in Germania. Il proprietario del locale era l'ex batterista di Carlos Santana. Che una volta entrati lì dentro ci ha messo a disposizione la sua strumentazione. Qualora avessimo voluto. Il nome del locale: Taverna Timbales. Taverna Timbales. Quindi, esatto. Chi era? Tito Puente? Era un tale Alex Osman. Era lui. Sì. Lui ci ha messo a disposizione la sua strumentazione, quindi una strumentazione professionale. Noi siamo stati costretti a dire no grazie. Lui ha tolto la sua batteria da $1 milione. Sì. E diciamo che anche portavamo dentro i bidoni della spazzatura. Voi immaginate la faccia di quest'uomo quando abbiamo c'è rimasto malissimo. Però voglio dire, Simone, tu avresti voluto suonarla, da farci un giro su quella batteria. Ma diciamo che di batterie belle ne ho suonate, ce ne sono tantissime, però la mia di bidoni è unica, nel senso, quindi da un lato preferisco la mia. Posso dire una cosa, non so se siete d'accordo, questa musica che fate voi può avere un collegamento con quella che fa l'orchestra di Piazza Vittorio a Roma. Cioè fa, usa anche degli strumenti un po' particolari, atipici. Chiaramente voi la fate in modo molto più vivace, molto più buskers. L'orchestra di Piazza Vittorio partiva dal basket e poi è diventata praticamente un fatto già risaputo, cioè quasi cristallizzato nel senso, certo, positivo del termine. Partite anche voi da là, secondo me. Questo è il motivo. Questo collegamento tra l'orchestra di Piazza Vittorio, che usava strumenti assolutamente atipici, anche le corde, il basso, il contrabbasso fatto in questa maniera, ecco, forse la ricerca della musica diversa fatta con strumenti poveri è fondamentale in questo libro. Vero. Cosa dici, Giovanni? A me l'idea del bidone è venuta perché nel 91, ascoltando della musica Dixieland, c'era questo disco 78 giri, in cui la copertina era disegnata, erano delle foto molto, molto vecchie, dove c'era un signore che suonava una specie di come si dice, bacinella per lavare, un grosso recipiente con questo bidone e la corda, poi c'erano degli otri e c'era un asse da lavare e via dicendo. Allora ho detto: ma che roba è? E un mio amico mi ha detto: guarda, ascolta e non ci crederai. E anche loro facevano del jazz usando questi strumenti. Da lì è nata l'idea e poi l'ho portata avanti cercando di sviluppare il più possibile le sonorità di un contrabbasso. Certo, allora il jazz è stato fondamentale per creare questo ensemble, possiamo chiamarlo così. Esatto. Benissimo, quindi questa abbiamo catalogata anche come musica da ascoltare ferma ai semafori mentre si suona assieme ai Manzella Quartet il proprio volante e si fa magari andare anche la freccia a ritmo delle musiche dei Manzella Quartet. Allora, da Ceci n'est pas une vache, un altro estratto qui a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live. Don't drink coffee, I take tea, my dear. Lie my toes down on the side. As you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking King here at my side. I dig it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Manners make it, manners, someone said, is the hero of the day. Take some manners, offer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, can lead to notoriety. You can end up as the only one. Gentleman, sobriety, are rare in this society. Not a candle's brighter than the sun. Take more than can that get to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk and never run. Manners make it manners, someone said. He's the hero of the day. Take some manners, suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E quella splendida canzone di Sting, Englishman in New York, scritta nel 1987 dall'album Nothing Like the Sun, è stata riveduta e corretta dai Manzella Quartet, comunque riconoscibilissima, e l'abbiamo ascoltata. Tratta da questo disco che appunto si intitola Assassine par une vache e che è tratto da un live in Ferrara, in questo caso. Quindi Manzella Quartet si sono esibiti e ci hanno spiegato mentre il disco andava qual era la particolarità. Io prima mi riferivo agli autisti che suonavano il volante piuttosto che altri aggeggi mentre aspettavano il verde ascoltando le musiche di Manzella. In realtà dal vivo cosa succede, Alex? Dal vivo succede di tutto. Questo è uno dei nostri pezzi più coinvolgenti. Senza nulla togliere i nostri, però questo è veramente un pezzo che col nostro arrangiamento, avendo accentuato l'animo reggae di questa canzone, è veramente trascinante per il pubblico e ancora di più per il fatto che nella parte di percussioni in cui il batterista solitamente si scatena nell'originale di Sting, è il pubblico che si scatena, perché distribuiamo delle percussioni ecologiche, ovviamente differenziandole, quindi plastica con plastica, alluminio con alluminio. Distribuiamo al pubblico queste percussioni, il pubblico suona con noi fino ad arrivare a un certo punto in cui suona solamente il pubblico, quindi si crea una specie di drum circle, un cerchio di eco tamburi. Il pubblico suona con noi fino alla fine del concerto. Cioè, il nostro obiettivo è far suonare solo il pubblico e noi ce ne andiamo. Sì, in effetti quello è scopo finale di questa cosa. Fantastico, poi vi presentate all'uscita per vendere i dischi nel frattempo mentre il pubblico continua anche suonare. Perché i vostri dischi sono disponibili sia ai concerti sia nei migliori negozi di dischi, come si ricordava prima, ma sono anche distribuibili tramite internet e piattaforme. Sì. Digitali, assolutamente. Sì, potete fare richiesta del nostro CD tramite il sito internet, c'è un form che potete compilare con la vostra richiesta e ve lo spediamo volentieri. Alessandro ha detto una cosa molto interessante a proposito del significato musicale del pezzo, la puoi ripetere? Come lo avete creato? L'avete di? Sì, l'abbiamo disossato. È disossato, bellissimo secondo me, proprio ridotto allo scheletro praticamente. Sì, ma alla fine quando un pezzo è bello, cioè assolutamente si tiene basta uno strumento e basta una voce, e qui in questo caso gli strumenti non ne abbiamo, però diciamo che è l'interpretazione che conta, e diciamo che l'abbiamo interpretato in maniera nostra, cioè abbiamo messo Ci abbiamo messo del nostro. Sì, Max non c'era, però come ti saresti immaginato in quel momento mentre suonavano il pezzo a Ferrara? Io mi sarei immaginato come mi vedo ogni volta durante il concerto, cioè su e giù dal palco. E normalmente io inizio il concerto, dopo 3 minuti sono a suonare in mezzo alla gente, qualunque cosa io abbia in mano, che sia una percussione, un tappurello, un asse per lavare i panni, inizio a suonare con la gente e la gente inizia a suonare con me, quindi con noi. Cioè, diciamo che mi sono ritrovato a essere il braccio lungo dei Manzella durante le performance. Non ti live. Butti come Roger Waters, come Roger Daltrey che si buttava gli spettatori quando cantavano più. Tommy. Non più. Anche perché ci vuole una buona assicurazione, esatto. Sia per se stesso e anche per gli altri. Forse a quei tempi ancora non si considerava questa. Infatti il pubblico è sempre spaventatissimo. Non si sa mai. Allora ricordiamo i nostri ascoltatori che sono disponibili già alcune foto sul nostro sito tramite Facebook, quindi all'interno della pagina riservata a Blu Radio Veneto Rock Wave. C'è già una piccola dimensione di quello che sta succedendo questa sera all'interno dei nostri studi e in primo piano, oltre a vedere un bel pezzo di tegliarra che proprio si capisce come è fatta, c'è anche questo vasetto di splendida Nutella che fa proprio da regina in questo tavolo. Che sta suonando chi? Maurizio? Ah no, no, mi permetterei mai. sì. Di suonare. Ecco, quindi l'abbiamo anche sentito suonare ancora una volta. Allora, ancora spazio live, Manzella, per presentare un altro pezzo, uno dei vostri pezzi della grande produzione Manzella. In questo caso c'è... Il panino assassino. Eccolo là, il panino assassino. I Manzella. Vi siete mai chiesti che cosa succede quando si entra in un autogrill? Ascoltate attentamente e poi mi direte. Scale, si apre la porta, dietro il bancone la coda infinita, ma chi se ne importa? Guardo i panini nella vetrina, felino, caprese, camogli, una tipa li fa in cucina. Ne scelgo uno, senza fiatare, panino leggero con tanta verdura, ma non esagerare. Dolce fanciulla, con la divisa, devo passare alla cassa perché qui nessuno si fida. Grande sorriso, non vuole un dolcetto? Con l'aggiunta di 80 centesimi ha un menù perfetto. Mangio il panino, bevo una coca, mi guardo in giro una bella signora e un bambino che gioca. Dove è l'uscita? Seguo il cartello. 5 chilometri in mezzo alle offerte di questo e di quello. Senti carietta, torno a guidare. Sono quasi vicino all'uscita e comincio a star male. Sono in ritardo, siamo a Cantù. Porca paletta, il panino non va. Né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù. Della autostrada sono le di una vita spietata. E salutiamo anche tutte le persone che sono in autostrada in questo momento, che hanno ascoltato il panino assassino dei Manzella Quartet e hanno cambiato idea, quindi si sono fermati solamente a fare un po' di gasolio, un po' di benzina e hanno deciso che la pausa panino forse... È già arrivata la denuncia da parte di Autogrill? Sì, in questo caso un attimo solo che apro internet, no, non ancora. Niente siamo... diffide. Sì, no, non ancora, nessuna diffida, anche perché devono capire, secondo anche notizie recenti, qual è il confine tra appunto la critica e il parlare male di certe cose. In questo caso era diciamo è una storia personale, quindi diciamo vita vissuta. Diamo spazio anche, anche a chi vorrà parlare bene del panino dell'autogrill. Tutto al più sarebbe cantar male. Soprattutto del rustichello. Eccola. Quindi, cioè tu è un panino effettivamente il panino top dell'indigesto. Se non ha, è proprio quello, perché scaldato fa più male che non prenderlo congelato alcune volte. Sì. Va bene, dai. Allora Manzella Quartet ci ha presentato questo il panino assassino, quindi frutto anche di vostre esperienze, diciamo, correndo per strada, affrontando sempre nuovi palchi, e si passa anche sempre per nuove autostrade, quindi per nuovi autogrill. Certo. Sì. Il panino è emblematico nella storia di tutti i musicisti, il panino dell'autogrill, chi non c'è passato. Tutti i musicisti penso che se hanno avuto un po' di esperienza in giro per l'Italia, questo bel panino dell'autogrill se lo sono gustato e hanno faticato per digerirlo. Certo, però voi non vi siete fermati al panino assassino, parlando sempre di autostrade, voi avete in serbo un altro pezzo, si può cantare? Sì. C'è rischio denuncia in questo? No. Qui la società autostrade penso che... No, insomma, sì. Poi, diciamo che abbiamo solo notato una cosa, andando in giro per l'Europa... Sì. Quando si arriva al casello tutti quanti ci dicono bonjour, con ça va... Sì. In Italia, non ti guardano neanche. No, telefonano, vero? Esatto. Sì. E stanno perenemente per cui al telefono. Ci siamo un attimino arrabbiati per questa cosa, perché sì, abbiamo detto, ma è mai possibile che non ce n'è uno che ti faccia un sorriso? Sì, è vero che poveracci, sono in una situazione veramente non ottimale, però anche dalle altre parti è così. Noi quando siamo andati appunto in Germania, siamo passati per la Francia, la prima cosa una ragazza, sarà che era carina, sarà quel che, sì, che sì, vuoi, però è venuta lì e fa bonjour, ti mette allegria. Tu arrivi lì e non ti guardano neanche. Soprattutto quando sbagli strada, sbagli casello, trovarti davanti a una persona sorridente già ti semplifica un po' le cose. E penso soprattutto a chi vive in autostrada, che è sempre in macchina, sempre in auto e fa tanti caselli. E forse per e tutti i giorni veramente sono nati anche i self-service. Buon telepass. Sì. Forse infatti lo diciamo... facciamo notare. Sì. Benissimo, allora ci ascoltiamo anche questo il casellante? Okay. Benissimo, sì. Allora diamo tempo ai Manzella Quartet di prendere la postazione, anche perché quelli che devono prendere non sono strumenti normali, sono degli strumenti che vanno quasi indossati, si può dire, soprattutto il bidon basso che va costruito di volta in volta, quindi una volta che la rilonga è tirata a dovere si può partire. Eccolo là, sì, abbiamo sentito il là. E quindi ancora Manzella Quartet qui con noi con il casellante. Ma cioè, finalmente il weekend, non vedevo l'ora, play dei panini come in gita. 15 chilometri in raccordo per l'uscita. Coda interminabile, oddio, che fatica. Scarcio il freno, metto in folle, tiro sul mio finestrino, cerco l'uomo con lo sguardo, lui nemmeno un sorrisino. E un vacanza nel casello, lo capisco, lo perdono. Non sorride mai, che bello, per contratto di lavoro. Nebbia fitta nel gabbiotto, fumo un'altra sigaretta. Non mi dice quanto devo, non mi indica l'importo. Sembra proprio concentrato, dietro su vetro blindato. Parlo nel microfono, è addormentato. Schiaccio il freno, metto in folle, tiro giù il mio finestrino, cerco l'uomo con lo sguardo, lui nemmeno un sorrisino. In vacanza nel casello, lo capisco, lo perdono. Non sorride mai, che bello, per contratto di lavoro. Ma il problema ora si pone, tanta maleducazione. Quindi non ti lamentare con l'automatizzazione. C'è una nuova macchinetta, è là fuori che ci aspetta. Quella mi saluta e mi rispetta. Scaccio freno, metto in folle, tiro giù il mio finestrino, cerco l'uomo con lo sguardo, lui nemmeno un sorrisino. Tutto il giorno a respirare, aria fritta ed aspettare. Autocamion, motocicli, ne ha inalati molti tipi. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Sempre all'interno di Blu Time Live con il Manzella Quartet, ancora per pochi minuti. Ormai ci avevamo preso gusto nel sentire le loro strumentazioni così particolari, quasi ci siamo dimenticati di come sono i reali strumenti musicali. E abbiamo ascoltato anche questo pezzo, si intitola Il Casellante, e appunto parla della situazione dei casellanti in Italia. E dopo questa canzone, canzone di denuncia peraltro, sì sì certo, altamente... Presterò ancora più attenzione, visto che ne vedo almeno due al giorno, e mi piace, cioè, diciamo, mi piace vedere i volti dei casellanti, proprio per definirli, per cercare di capire cosa c'è dietro quella telefonata continua, sì, che stanno facendo, o soprattutto chi è il collega con cui stanno comunicando, che non si vede mai. Ah, no? Certo. E quindi loro stanno sempre parlando. E anche alle due di notte, il fatto è più strano, no? Che, che non so come che siano telefono, né che abbiano vicino. Comunque, ok, Il Casellante in Manzella Quartet. Il precedente pezzo che avete eseguito era un pezzo con finale blues. Sì. Era un po' noir, decisamente il Panino Assassino, non poteva ovviamente essere altrimenti. Questo invece il blues l'avete lasciato da parte, e era una specie di una ballata, per modo di dire, tra virgolette, un po' così ironica, giustamente. L'ironia fa parte centrale, fondamentale del vostro credere musicale, cosa dite? Direi proprio di sì. Sì, è una canzone particolare. Esatto. Abbiamo cercato di pennellarla questa canzone, sì, senza esagerare. Delle pennellate, giustamente, esatto, senza indietro. Molto leggeri. No, sì, chiaramente. Noi siamo abbastanza attenti a quello che ci circonda, per cui le nostre canzoni sono basate soprattutto su quello che è il vivere quotidiano, per cui tutto quello che noi vediamo intorno a noi cerchiamo poi di metterlo in rima e di cantare. E le parole praticamente si accompagnano alla musica, che deve essere in determinate situazioni anche diverse. Sì, all'inizio questa era molto più pesante perché Alessandro faceva degli accordi pieni e diventava troppo monotona. Troppo monotona. E invece poi ha trovato questa, come rispetto al discorso che si diceva prima, che noi quando facciamo gli arrangiamenti se lavoriamo insieme si lavora bene, se sì, no. Esatto. In effetti non ho trovato, questa. Abbiamo trovato insieme gli arrangiamenti che ci sembravano comunque validi. Certo, certo. Benissimo, allora ancora una pagina dell'album Se si ne pa un vasce dei Manzella Quartet, questa volta è di turno Concrete Jungle. Live Blue Time. Blue Time Live. Today, no sun will shine. The high yellow moon won't come out to play. The high yellow moon won't come out to play. Darkness has covered my life, ooh, and it changed my day into night. Ooh. Where is someone help me, 'cause my sweet life must be somewhere to be found. And there's a concrete jungle, and the living is harder. And there's a concrete jungle, man, you got to do your best. No chains around my feet, that I'm not free. Now I am bound here in captivity. Yeah, now I never know happiness. Someone help me, 'cause my sweet life must be somewhere to be found. And there's a concrete jungle, and the living is harder. And there's a concrete jungle, man, you got to do your best. We'll be right back. since I was but laughing like a clown. Won't someone help me, 'cause my sweet life must be somewhere to be found. And there's a concrete jungle, a concrete jungle, man, you got to do your best. And there's a concrete jungle, and then beating is other. And there's a concrete jungle, man, you got to do your best. Blue time. Blue time. Blue time. Blue time. Blue Time Live, ancora con i Manzella Wailers in questo caso, perché abbiamo ascoltato un pezzo di Bob Marley, Concrete Jungle, con i Manzella Quartet e con i loro strumenti, o come li ha chiamati Alex, i loro arnesi da suono in questo caso. E, allora, è stata una piacevolissima serata che ancora non vuol finire, ma purtroppo tra poco dobbiamo dirci ciao, però vabbè, è sempre il ciao, è un arrivederci anche in un certo senso, perché sono sicuro che dopo questa trasmissione, dopo questo disco, sicuramente ne uscirà un altro e quindi un'altra trasmissione. Cosa ne pensate, ragazzi? Ovviamente sì. Noi lo sappiamo. Magari anche con strumentazioni nuove, perché magari state scavando qualche zucca. Sì, qualcosa, siamo sempre alla ricerca di nuove sonorità. Di nuove sonorità. Allora, prima di lasciarci, visto che sono già le 22.30, però il nostro amico collega che verrà dopo con la sua classifica ci lascia ancora qualche minuto, quindi salutiamo anche Alberto Prisco, tramite il quale voi siete arrivati qui al nostro cospetto. Ciao Alberto, grazie. Grazie, microfoni. Grazie Alberto. Ecco, Alberto ci regala. Vuoi dire ciao Alberto? Di solito ai live non partecipo mai, però è un piacere. Ecco, bravo. Ecco, sono dopo Agostino. Bene, e adesso è dopo di me. In questo martedì sera poi sentirete, ha preparato una scalettina di musiche fantastiche, quindi non vale la pena cambiare la frequenza, restate sempre all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, e dopo Blu Time Live ci sarà anche Rock Wave, l'onda del rock. E, allora, carissimi Manzella Quartet, prima di salutarci ci sono ancora due pezzi che vale la pena presentare, soprattutto per dare delle chicche ai nostri ascoltatori, perché oltre al disco che appunto ricordiamo, Ceci une Vache, con la copertina con una mucca su sfondo verde, da non confondere con Atom Nerd Mother, si diceva prima, ecco, dei Pink Floyd, è impossibile anche perché la vostra è fatta con carta riciclata e soprattutto è una l'unica è una differenza. E poi è una mucca allungata, mi sembra di capire, anche è una razza particolare che non conosco, è una mucca allungata questa, secondo me è una mucca con 3C. Allora, parliamo di questi che sono i due pezzi che ci farete alla fine dopo i nostri saluti. Sì, adesso abbiamo in programma di farvi due pezzi, uno che parla di un grande fare del momento, cioè della centrale nucleare. Abbiamo voluto diciamo enfatizzare quello che per noi invece è una realtà, a differenza di come la pensano molte altre persone, cioè che la centrale nucleare non la si fa molto per necessità, ma la si fa perché è un affare che porta molto denaro a alcune persone. E diciamo che abbiamo voluto raccontare la giornata tipo di una persona che si ritrova diciamo nel bel mezzo di un incidente nucleare. È un po' catastrofica, però diciamo che all'epoca l'abbiamo scritta subito dopo l'incidente successo in Giappone, che ci ha lasciato molto colpiti, poi essendo abbastanza ecologisti abbiamo voluto scrivere questa canzone. Non è una vera e propria presa di posizione, ma è un qualcosa per far riflettere. E poi la seconda canzone? Beh sì, la seconda canzone si intitola Che spesa sarà, perché abbiamo riflettuto assieme, così andando a fare la spesa basta guardare un attimo, girare al contrario la confezione di qualunque prodotto si compri e iniziamo a scoprire diciamo dei misteri imperscrutabili. Prendo la confezione di uova, giro, trovo ingredienti, io dico sono uova. Ingredienti cosa? Tartrato ammonio, la salsiccia col colorante, è color rosso, il torero, praticamente la sventola davanti il toro quella salsiccia. E ci chiediamo perché mai la pectina, il tartrato ammonio, cosa sono? E noi li mangiamo, basta girare la confezione, a sto punto mangiamo la confezione stessa. Cioè, quindi il cartone fa meno male a volte. Esatto. In questo caso, poi dipende dai punti di vista del cartone, naturalmente. E poi Cassius Clay ci insegna cos'è il vero e proprio cartone. Sì. Allora, salutiamo il Manzella Quartet, quindi salutiamo Alex, poi Giovanni Gioganga, ancora Simone Simogalla, ecco, sì. Ciao. E poi ancora Max, Max Contorno. Yes. No? Eccolo qua. Infatti non è un vero e proprio primo, è un contorno. Ma non sono secondo a nessuno. Benissimo. Allora, come avrete capito, anche il Manzella Quartet sono dotati di un grande umorismo, che quindi sono anche cabarettisti oltre che strumentisti dei loro attrezzi, come li abbiamo definiti prima? Attrezzi musicali. Allora, ci ascoltiamo questi due pezzi in finale trasmissione. Allora, Maurizio, noi salutiamo. Certamente. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, vi lasciamo ancora assieme a Manzella Quartet per questi ultimi due pezzi. Grazie ancora ragazzi di essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao Manzella. Ciao. Buona serata. Sonnato, mi faccio un bel toast, accendo il PC, la televisione, mi tengo informato, dov'è il cellulare? L'ho messo lì. Luce accesa, microonde, tosta, pane, lavatrice, cellulare, allarme, climatizzatore, tende, asciugatrice. Tante volte acceso un apparecchio un po' distrattamente, tante volte penso, ma se non avessi la corrente? È senz'altro un grande affare la centrale nucleare, non è mai successo niente, non ti devi preoccupare, non è mai successo niente, qui è tutto regolare. Che bel pomeriggio, il capo mi chiama, rispondo una mail, vieni subito qui! Ho preso il giornale, la vita è un po' strana, notizia scioccante, sono rimasto lì. Fax computer, luci accese, scanner, fotocopiatore, cellulare, allarme, stampa, router, climatizzatore. Tante volte accendo il mio PC un po' distrattamente, ogni volta penso, ma se non avessi la corrente? È senz'altro un grande affare la centrale nucleare, non è mai successo niente, non ti devi preoccupare. È senz'altro un grande affare la centrale nucleare, non è mai successo niente, qui è tutto regolare. È già mezzanotte è tutto illuminato. Vetrine e palazzi, ma il cielo dov'è? Ripenso le news e sono ancora scioccato. Riprovo a dormire, ma il sonno non c'è. Non è proprio un grande affare la centrale nucleare, non è mai successo niente, non ti devi preoccupare. Non è proprio un grande affare la centrale nucleare, non è mai successo niente, non ti devi preoccupare. Non è mai successo niente, qui è tutto regolare. Non è mai successo niente, non ti devi preoccupare. Pare. E adesso vi dico cosa mi è capitato, ero all'Esselunga. Lì per la spesa, preparare la cena, una cosa in fretta. Volevo solo comprare qualche cosa da fare, pane, latte fresco. Ma giro il contenitore, leggo gli ingredienti e poi tutto il resto. Tenere il prodotto in fresco, ma il 10 d'agosto il fresco dov'è? La data della scadenza è indicata sul retro, ma il retro non c'è. E questo latte scremato, intero macchiato, ad alta digeribilità, sembra venuto da Marte. Mi sorge un dubbio, che cosa sarà? È parzialmente scremato con i carboidrati, valore energetico, leggete qua. Sembra venuto da Marte, ho tanta paura, che cosa sarà? Agenti lievitanti, pettina, bicarbonato, idrogenato, pettina di soia, glutammato potenziato, grassi non idrogenati, olio EVU, grassi idrogenati, polifosfato modificato, salsiccia col colorante dal rosso inquietante, che vernice è? Una dozzina di uova sbiadite la moda, ma il tuo orlo dov'è? E queste nuove galline e il loro mangime ad alta digeribilità, sono partite da Marte col disco volante, sono venute qua. 200.000 etichette che spiegano tutto quello che è stato e quel che sarà. Ti fanno fare una spesa più che misteriosa, che roba sarà? Ti fanno fare una spesa più che misteriosa, che roba sarà? Che latte sarà?